C'era un uomo solo in fondo ad una birreria. C'era un sogno infranto da tanta ipocrisia. C'era una notte fredda in un paese di periferia. C'era un uomo stanco che pensava di scappare via. C'era una notte fredda in un paese di periferia. Ascoltati mai, sai che si sta male a mantenere questi usurai, ma questo non è il modo di togliersi dai guai, ma questo non è il tempo di chiudere gli occhi, sai. C'era un uomo stanco che pensava di scappare via, c'era una notte fredda in un paese di periferia. Vuole qualcuno che abbia il suo destino come quello che hai te, abbia nel suo cuore l'amore per la sua terra, abbia nel suo scopo amare la sua terra. C'era un uomo stanco che pensava di scappare via, c'era una notte fredda in un paese di periferia. Facciamoci la guerra, per il nostro futuro non facciamoci la guerra, per il nostro domani guardiamo al nostro ieri, per i nostri figli non diamogli pensieri. C'era un uomo stanco che pensava di scappare via, c'era una notte fredda in un paese di periferia.